Non metterò mai più il maglione rosa e blu che tutte le mattine indossavo a colazione preparando il tuo caffè. E non sarò più io a dirti amore mio, come sei bella la mattina appena sveglia, è già tardissimo. Le interferenze fanno rumore e non si può cambiare canale. Spegnere il televisore durante ogni temporale, ma come ho fatto a non capire? E far l'amore ore d'ore già iniziava a nevicare, il nostro letto all'improvviso si trasformò in altare, l'eternità nascosta. Lascerò la porta aperta, fosse anche per 20 anni o per un'eternità. Tradire è una follia, io non ne avevo idea. Ma le scuse son parole che offendono l'amore e non possono spiegare. E intanto il vento fa rumore. E Dio fa che ritorni il sole, che senza lei non so più stare e non mi basta ricordare. E far l'amore ore d'ore già iniziava a nevicare, il nostro letto all'improvviso si trasformò in altare, l'eternità nascose un po'.